Migliaia di ragazzi e ragazze sono vittime dell'ultima novità nel campo degli stupefacenti diffusa in Italia, con il nome ecstasy. L'ecstasy è una sostanza chimica chiamata metilene-diossi-metanfetamina, MDMA, usata specialmente nelle discoteche e nei nightclub. È illegale in ogni paese del mondo e anche estremamente popolare. Mezz'ora dopo essere entrati in circolo provoca la produzione di serotonina, il principale regolatore dell'umore prodotto dal corpo. Chi la usa balla e si agita fino alla spossatezza grazie al flusso indotto dalla droga e grazie al potenziamento del senso del tatto, al crollo delle inibizioni e dell'aumento della carica sessuale che accompagnano la sua assunzione. L'ecstasy gode del soprannome di droga dell'abbraccio. Nonostante questo, da molti l'ecstasy viene ritenuta innocua, anche perché a pochissimi provoca i sintomi dei postumi di una sbronza. Purtroppo però non è sempre così, come quella ragazza studentessa universitaria, 19enne, che partecipò ad una festa. Nella notte cominciò a vomitare e corse in bagno. Quando ne uscì, crollò a terra. Boccheggiava e aveva la bava alla bocca. Quando l'ambulanza giunse, sul luogo era morta. L'autopsia rivelò che la giovane era stata vittima di una reazione avversa dovuta all'ecstasy. Ad aumentare la gravità del problema, le pastiglie vendute per strada spesso sono tagliate con altre sostanze, tra cui anfetamine medicinali e persino insetticidi, il che rende la droga pericolosa in maniera ancora più imprevedibile. Il problema è serio e spesso i genitori non si accorgono se i loro figli sono vittima di questa droga. Com'è possibile che i genitori si accorgano se i loro figli fanno uso di ecstasy? Devono stare attenti a quei cambiamenti di umore che non sono tipici dello sviluppo, devono osservare l'irritabilità, la perdita di interesse per la scuola e la famiglia, le improvvise richieste di denaro e l'insorgere di una eventuale depressione. È importante notare i primi segnali perché, di solito, quando qualcuno si rende conto di avere bisogno di aiuto, generalmente ha sgarrato da molto tempo. Un ragazzo che prendeva l'ecstasy confessò di dover smettere perché sembrava che la vita non avesse più senso senza la droga e alla fine aveva perso amici e speranze. L'ecstasy ti fa entrare in un mondo irreale, tutto nuovo, un mondo adatto per chi vuole uscire dalla routine della vita e ama esperienze tutte nuove. Dobbiamo riconoscere per prima cosa che il desiderio del nuovo, il fascino di esperienze particolari, sono innati nell'uomo e in particolar modo con una intensità maggiore nel periodo giovanile. Se non siamo più giovani, tutti noi sappiamo quanto sia seducente ciò che è sconosciuto e il trasgressivo ha un immenso potere su di noi da farci fare a volte quello che non avremmo dovuto fare. Ho letto la testimonianza di uno scrittore di quando era giovane, che mi ha fatto sorridere. Suo padre gli diceva che poteva leggere i libri che teneva in casa, ma di tanto in tanto gli ordinava di non leggere un certo libro. E fu così, diceva questo scrittore, che arrivai all'età adulta che avevo letto i libri dei più importanti poeti e letterati. Chi di noi non ha notato che i divieti dati ai nostri figli sono i primi ad essere trasgrediti? Così il desiderio di novità e di trasgredire è un istinto innato, che fa parte della nostra natura. Non è possibile perciò condannarlo, come non è possibile condannare l'istinto della fame o quello del sesso. Sono istinti che dobbiamo accettare, riconoscere buoni e convivere con essi. Se non abbiamo questo atteggiamento, siamo e diventiamo disumani. Però non ogni istinto è usato bene, perché se io rubo per mangiare o commetto adulterio, offendo Dio e il prossimo. Perciò ciò che non va non è tanto l'istinto, ma come lo uso. Nello stesso modo è da ritenere l'istinto della ricerca del nuovo e del trasgressivo. I giovani, e non solo loro, non devono essere bloccati nel loro istinto, perché sarebbe come bloccare di colpo un treno in corsa. Il risultato è solo distruzione. Ai giovani occorre dare un terreno sul quale poter incanalare i loro istinti. Occorre dare un'alternativa dove possono realizzare queste innate capacità e inclinazioni. E anche di questo Dio si è interessato e ha provveduto. Il messaggio del Vangelo non è solo indirizzato alla vita passata e futura, e cioè non parla solo di perdizione eterna e di vita eterna, ma è soprattutto un annuncio che, se è vissuto, permette a chi lo accetta di realizzare in pieno il desiderio della novità e del trasgressivo. Il Dio che ci ha creati non ci ha dato degli istinti perché restino insoddisfatti, ma Egli vuole che questi istinti siano pienamente messi in atto, vuole che siano pienamente soddisfatti, e per questo ha provveduto ampiamente perché così sia. Perciò, lo scopo di chi annuncia l'Evangelo non è tanto quello di condannare i giovani che fanno uso di droga, anche se ovviamente ciò non è buono, ma è offrire l'alternativa di una vita piena di novità e di trasgressione. E questa alternativa la può dare solo Dio in Cristo. Che cosa dona Cristo ai credenti al posto della droga? Che alternativa di vita offre da sostituire l'ecstasy? Chi ha mai notato che i cristiani abbiano degli effetti simili alla droga? Se a porsi queste domande sono coloro che professano di seguire Cristo, la faccenda diventa seria, perché significa o Cristo non ha offerto una vita tale da sostituire l'ecstasy, o i credenti non vivono appieno il cristianesimo. Ma poiché Cristo non ha mai mentito, è evidente che sono i credenti a non condurre una vita che rappresenti una valida alternativa alla droga. Come possiamo sapere che la vita cristiana è simile a quella di un drogato? Lo testimonia la Scrittura e l'esperienza di chi vive pienamente il cristianesimo. Un'esperienza nota è quella del giorno della Pentecoste, quando i discepoli di Cristo ricevettero lo Spirito Santo. La testimonianza dell'Evangelista Luca è la seguente. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini picchei, da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano, e si dicevano l'un l'altro, ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, che è di fronte a Cirene, e noi residenti di passaggio da Roma, giudei e proseliti, cretesi ed arabi, gli udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi, e si dicevano l'un l'altro, che vuol dire questo? Altri invece li schernivano e diceva, no, sono lì pieni di vin dolce. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro. Giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi, come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e profetizzeranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Atti 2:5-21. Se fossimo stati presenti a sentire alcune persone parlare in lingue a loro sconosciute, anche noi avremmo detto che erano ubriache. Con il linguaggio di oggi avremmo detto che erano drogati, che erano fuori di sé, che avevano preso l'ecstasy. E questo anche perché parlavano una lingua sconosciuta sia a noi che a loro. Eppure i discepoli erano solo ripieni dello Spirito di Dio e parlavano da parte di Dio. Cosa era avvenuto? Nulla di strano, perché Gesù aveva promesso che chi avesse posto fede in Lui avrebbe ricevuto lo Spirito di Dio abbondantemente. Giovanni 3:34. 1. Spirito i cui effetti sono simili all'ecstasy rendono fuori di sé, ossia pazzo. Questo era l'appellativo dato ai profeti che parlavano da parte di Dio prima di Cristo, 2 Re 9 e 11, e ai testimoni di Cristo, dopo la sua resurrezione. Ne abbiamo un esempio in un episodio della vita di Paolo quando testimoniò della sua conversione davanti al re Agrippa, il quale, nel sentire quelle parole, non si trattenne e disse ad alta voce: «Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno». Ma Paolo disse: «Non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno». Atti 26, 24, 25. Paolo sapeva molto bene cosa significa essere cristiani, al punto che quando scrisse una lettera agli abitanti di Corinto disse: «Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti, voi siete onorati, ma noi siamo disprezzati». 1 Corinzi 4 e 10. Più di una volta anch'io nel predicare l'Evangelo ho ricevuto il giudizio di non essere una persona normale, come del resto tutti coloro che vivono condotti dallo Spirito Santo. Dunque, i giovani e non che desiderano una vita nuova, esperienze nuove, coloro che vogliono essere trasgressivi e anticonformisti per la società non hanno altro che da accettare la proposta di Cristo, cioè quello di seguirlo. Predicare l'Evangelo, vivere le parole di Cristo anche a costo di essere contro tutto il mondo, è la vita più innovativa e drogata che ci sia. Un giorno testimoniavo ad un giovane punk orgoglioso di mostrare un taglio di capelli a forma di cresta alta 10 centimetri. Mi chiese perché parlavo proprio a lui di Cristo, ed io gli risposi: «Cristo ha bisogno di giovani come te. Se tu hai il coraggio di andare controcorrente per la moda, hai anche il coraggio di predicare un messaggio che va contro il mondo intero. Vuoi una vita che abbia senso, con dei giusti obiettivi, con delle beate speranze, cosparsa di veri amici? Vuoi essere originale, rivoluzionario e fare esperienze uniche? Vuoi essere un drogato e pazzo per Cristo? Vuoi qualcosa più forte dell'ecstasy? Allora il cristianesimo fa per te. Sii ripieno di Spirito Santo, e l'ecstasy, in paragone, sarà come un'aspirina». Ottobre 2005. Ellero.